si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Una buona giornata a tutti voi ascoltatori, sono le 8 e 36 minuti, inizia una nuova puntata di Si può fare. Buongiorno a te Carlo. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buona domenica. Buona domenica e prendete pure il telefono in mano, oggi si indovina il personaggio della settimana e lo si fa digitando l'800 24 00 24 e cercando di dedurre qual è il personaggio che si cela dietro ai nostri indizi. Il primo dei quali, Carlo, io darei subito. Certo, assolutamente, diamo subito il primo indizio. È diventato famoso suo malgrado. Quindi il personaggio della settimana ha fatto qualcosa nel corso di questa settimana ed è diventato famoso suo malgrado. E poi c'è sempre il 349-238-6666 per messaggi e WhatsApp. WhatsApp che oggi sono in grado di leggere, do una notizia a te, a Carlo e ma anche a tutti i nostri ascoltatori. Questa è una buona notizia. È una buona notizia, quindi potremo leggere i vostri WhatsApp al numero solito, appunto, che ho appena detto, ma ripeterò, 349-238-6666. E a questo punto cedo a te il microfono per sapere un po' che cosa ci consigli da vedere o da leggere. Guarda, questa settimana ho messo in ordine casa, cioè in realtà come molti è un po' che ho iniziato a fare ordine, diciamo da dopo le prime 4 settimane di lockdown, ma la settimana passata l'ho fatto in maniera esclusiva, ho solamente messo a posto casa e non ho affatto finito. Devo ammettere che sono disposofobico, come ho scoperto recentemente che si dice in termini scientifici, ovvero sono un accumulatore compulsivo, non allo stadio finale, voglio tranquillizzare anche mia mamma se sta sentendo, nemmeno grave oserei autodiagnosticarmi, però sono certamente una persona che fa molta fatica a buttare via qualunque cosa che mi sia appartenuta, dai libri agli appunti, ai biglietti del tram, ai punti adesivi di catene di supermercato fallite da anni, insomma tengo quasi tutto. Nelle pause fra uno scatolone e una pila di fogli da scartare ho anche preso un libro a riguardo, perché appunto il miglior modo per placare la mia ansia dell'aver buttato via della carta è immettere nel sistema casa dell'altra carta sotto la forma inattaccabile quanto nobile di libro. E quindi ho letto Tengo tutto, perché non si riesce a buttare via niente. Un saggio edito da Erickson, di Frost e Sticky T, uno professore di psicologia, l'altra professoressa o preside di una scuola della Boston University. Ora, non so se consigliarvi questo libro nello specifico, perché è molto per appassionati della questione, a me è piaciuto molto, però nel leggerlo ho appreso che si stima che dal 2 al 5% della popolazione sia disposofobica, il che vorrebbe dire per l'Italia tra 1,2 e 3 milioni di persone con problemi di accumulo. E viene anche spiegato, sempre in questo libro, molto chiaramente che una delle prime manifestazioni di chi soffre di questo disturbo è la vergogna. Dunque è difficilissimo che queste persone decidano di parlarne e men che meno di cercare aiuto. Quindi il numero di 3 milioni potrebbe anche essere per difetto e potrebbero essere molti di più. E questo è il motivo per cui ci tenevo a dire a tutte e tutti che avere problemi nel disfarsi di determinate cose capita a tantissimi. Non sei la sola, non sei il solo. Chiedere aiuto si può fare, si deve fare e non è una cosa impossibile. Poi sempre in tema di riordino, anche se l'autore potrebbe ammazzarmi, credo, per questa affermazione, vi consiglio invece il bellissimo volumetto edito nella piccola biblioteca Adelphi di Roberto Calassi, Come ordinare una biblioteca, che contiene considerazioni straordinarie sui libri, leggere, l'ordine delle librerie, i buoni vicini e il ricoprire le copertine dei libri col pergamino, che solo leggendolo, questo brevissimo libro, ne scoprirete i vantaggi. O invece, se volete collezionare ancora qualcosa, potreste collezionare un puzzle per l'Italia, che è quanto sta realizzando, non lui direttamente, Luca Naio Leari. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Fondatore di Alma Creativa e ideatore di questa iniziativa che si chiama A Puzzle for Italy, che le chiediamo subito come funziona, come partecipiamo e poi cosa ne viene fuori. Allora, Puzzle for Italy è il primo puzzle fisico che nasce dal web. Diciamo che in questa fase di lockdown noi abbiamo avuto quest'idea come agenzia di creare una sorta di mosaico che raccontasse al meglio tutte le bellezze territoriali del nostro paese. E quindi abbiamo pensato che il puzzle potesse essere veramente un oggetto molto riconoscibile e simbolico che invitasse appunto gli utenti a condividere per loro un'immagine importante del nostro paese. È un progetto che, come vi dicevo, nasce dal web, nel senso che A Puzzle for Italy innanzitutto è un sito web dedicato, www.apuzzleforitaly.it, è una pagina Instagram. Che io ho visto stamattina, molto nutrita e bellissime davvero le foto che vi hanno inviato. Sì, siamo contentissimi, lo dico proprio di cuore, perché ovviamente quando si lancia in progetti che sono nuovi, soprattutto in una fase di ripartenza come questa, che stiamo tutti iniziando, diciamo, ad assaporare, ci riempie veramente il cuore il fatto che siano così tante le foto, perché già l'hashtag ha avuto più di 500, diciamo, menzioni, abbiamo quasi raggiunto le 200 foto e quindi contenuti originali sulla pagina, e questo mosaico si sta creando sempre di più, quindi è bellissimo per noi, lo dico anche in maniera molto onesta, stiamo tutto il giorno collegati, 4-5 persone a guardare i contenuti, e ogni foto che arrivano. Sì, ogni foto ci ricorda davvero quanto sia bello il nostro paese, che secondo me in un periodo come questo diventa poi importantissimo, perché veramente abbiamo sofferto molto nel non vivere le esperienze che l'Italia ci offre. Beh, adesso le guarderemo già con maggior affetto, con maggior desiderio, con maggior apprezzamento sicuramente. Quindi uno fa una bella foto, la invia, la condivide, giusto? Sì. E cosa ne esce fuori poi? Beh, allora, ovviamente. Mettendo l'hashtag Puzzle for Italy, taggando la nostra pagina dedicata, partecipa così alla challenge. Questa challenge durerà fino, diciamo, a fine luglio, o si potrà protrarre se effettivamente continueremo ad andare a ricevere così tanti contenuti, perché sta diventando un'avventura veramente molto, molto interessante, e il mosaico si sta compilando sempre di più. E queste foto, le più belle, le più rappresentative di questo momento storico, circa 50, verranno selezionate e diventeranno le foto protagoniste di un vero e proprio puzzle fisico, di cui l'immagine, diciamo... A quanti pezzi lo volete fare? Allora, anche qui ci sono dei dibattiti internazionali, tendenzialmente saranno 400, ma se la qualità delle foto sarà così bella, possiamo anche in corsa pensare di farlo di 1000 pezzi. Le foto, come vi dicevo, saranno 50, non sarà facile scegliere, fortunatamente, e la cosa, diciamo, bella, di cui forse andiamo più fieri di tutto il progetto, è che questo puzzle può essere già preordinato attraverso una campagna di crowdfunding presente sia sul sito che su Produzioni dal Basso, e quindi con una donazione di 25 euro si può ricevere direttamente a casa. Quindi, una volta finita la challenge, partecipato con una propria foto e taggato la pagina, se questa viene selezionata oppure no, comunque si può decidere di prendere il puzzle e in autunno arriverà direttamente a casa, cosa che per noi è molto importante, perché pensiamo da sempre che il puzzle possa essere un oggetto un po' iconico, quindi ci piace l'idea che prima di Natale si possa scartare anche come regalo un progetto che nasce poi dalla condivisione, e quindi tutti siamo tasselli di questa iniziativa. E il ricavato va in beneficenza per sostenere il FAI nella tutela, nel restauro di uno dei suoi beni, uno in particolare a Bergamo, che è questo Palazzo Moroni. Una scelta che avete condiviso con loro, immagino c'è la questione di Bergamo che... Sì, è stata la base di tutto, nel senso che ovviamente noi volevamo creare un progetto che potesse aiutare concretamente, anche seppur nel nostro piccolo, il nostro paese. Quando l'abbiamo proposto al FAI si sono detti subito entusiasti, insieme abbiamo individuato, diciamo, nella città di Bergamo qualcosa di simbolico che veramente, visto come è stata toccata da questo momento storico, potesse essere il giusto destinatario di un'operazione di questo tipo. Il FAI comunque per noi è stato un ottimo, diciamo, supporto da tutti i punti di vista, perché hanno una grande esperienza da questo punto di vista e veramente aiutano tutti i giorni nel riuscire a toccare un po' le corde del cuore e ad aiutare concretamente questo tipo di luoghi, e Palazzo Moroni è uno dei più belli e anche di quelli su cui stanno lavorando di più. Grazie allora, grazie a Luca Naio Leari. Grazie e ricordo a Puzzle for Italy per partecipare a questo concorso, di cui poi dopo si diventa vincitori e si vede, se si diventa vincitori, si vede il risultato su un puzzle. Adesso abbiamo la viabilità, tra pochissimo parliamo di ambiente e stati generali. si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questi stati generali dell'economia volgono al termine e in questo periodo Greenpeace ha lanciato un rapporto, adesso poi ci dettagliano tutto loro, insomma uno studio Italia 1.5 che tratteggia uno scenario energetico nuovo per l'Italia che ci consenta di centrare gli obiettivi che a parole l'Italia vuole centrare ma che forse con gli strumenti che ha messo in campo al momento non centrerà, anzi andrà ben lontana dal farlo. Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, siamo al termine di questi stati generali e com'è stata trattata la questione energetica in particolare, che idea vi siete fatti da questi giorni? Noi siamo stati ieri accolti al tarda serata dal presidente Conte, al ministro Costa, da altri ministri che erano lì, abbiamo potuto esporre quindi, quali sono tratteggiate, quali sono le caratteristiche di un sistema energetico che ci porta alle emissioni zero. Per la verità avevamo già avuto occasione di parlare sia col sottosegretario Fraccaro che col ministro dell'ambiente, quindi ieri abbiamo parlato anche col presidente e abbiamo spiegato che la sfida è fattibile ma c'è molto da fare e purtroppo vediamo che si fa molto poco. Quindi tanto che vi abbiano ricevuto insomma un po' sul filo del rasoio non è che dia molto. No, guardi, io sinceramente devo dire che o è capitato così, ecco. No, io credo che sia comunque apprezzabile che il governo abbia aperto questa finestra e non abbiamo mai avuto questa occasione in passato, per cui questo lo ritengo come un fatto positivo. Quindi al contrario positivo, ecco. È positivo. Qual è il punto? Il punto è che il nostro scenario, quello che dice, è sostanzialmente questo. Diversamente dai paesi del nord Europa, l'Italia ha un potenziale rinnovabile spostato molto sul solare piuttosto che sull'eolico, c'è un potenziale solare molto ampio e questo dà alle necessità di trasformazione del sistema energetico delle caratteristiche particolari. Innanzitutto le cifre, l'attuale piano prevede al 2030 50.000 megawatt di fotovoltaico, oggi ne abbiamo un po' più di 20.000 e nel nostro piano si vede che ce ne vuole il doppio, quindi 100.000 megawatt. Ci vuole molto più solare termico, c'è una componente eolica più piccola però importante, c'è un punto interrogativo sull'eolico galleggiante che è una tecnologia che sta per essere sviluppata e che potrebbe cambiare, però nello scenario non avendo numeri precisi viene citata ma non quantificata. Quello che significa che in conseguenze pratiche sono queste. Dobbiamo far convivere il fotovoltaico con le attività agricole, cioè l'idea che nei terreni agricoli non si possa anche produrre energia è sbagliata. Abbiamo esempi anche in Italia, in Puglia, di quello che si chiama agrivoltaico, quindi strutture non a terra che consentono alle aziende agricole di continuare a produrre agricoltura. Ma sono come sono fatte? Sono quei pali con... Sì, sono sia pali sia strutture, sia pali con dei grandi girasoli, ci sono diverse soluzioni oltre alle serre solari. Uno dei nostri attivisti ha proprio delle serre solari in Basilicata dove produce alta qualità di ortofrutta, ma produce elettricità. Quindi è possibile la convivenza. Ma tra l'altro da molto tempo, perché io ricordo di aver visitato dei campi per l'appunto in cui erano state fatte queste installazioni, ma molto tempo fa. Esatto, poi vediamo polemiche stupide da questo punto di vista, invece la convivenza è necessaria e possibile per una ragione semplice. il nostro scenario guarda la rete elettrica come il centro del sistema energetico del futuro. Noi stiamo vivendo, noi non solo l'Italia ma il mondo, sta vivendo una transizione storica. Mentre prima il settore energetico era tradizionalmente basato sull'industria estrattiva di gas, petrolio e carbone, ora ci stiamo spostando verso l'industria elettrica, perché noi almeno fino al 2030 lo scenario prevede un'elettrificazione di molti consumi, e questa è una criticità che abbiamo visto, è la rete elettrica su cui bisogna investire molto. Noi abbiamo avuto ad aprile una situazione eccezionale, perché tra il coronavirus e il lockdown e le vacanze pasquali abbiamo visto un calo nella domanda elettrica di oltre un terzo. Questo ha portato a un grandissimo contributo delle rinnovabili intermittenti, e la rete ha assorbito molto bene questa difficoltà utilizzando solo metà del potenziale, per esempio, dei bacini di pompaggio. Se vogliamo arrivare a delle quote verso il 100% dei rinnovabili dal 2030 in poi, la rete elettrica va messa al centro del sistema, bisogna fare degli investimenti e bisogna investire sugli accumuli, perché diversamente da un paese che ha molto... Senta, eolico, ma mi scusi, sì. Va bene, le volevo chiedere una cosa, mi scusi, ma come mai si chiama Italia 1.5? Cioè, in un momento in cui tutto è 2.0, anzi ormai il vecchio è 2.0, no, si parla di 3.0, 4.0, mi chiedevo se è un modo per sottolineare il fatto che siamo in ritardo, o se in realtà è uno sprone per dire 1.5 arriviamo a Italia 2.0. 1.5 si riferisce all'obiettivo di Parigi di stare... possibilmente di limitare la temperatura globale del pianeta a 1,5 gradi. Quindi 1.5 è legato all'obiettivo di Parigi. Perché sembra un po' un passo indietro, no? Nel senso che è tutto 2.0 e l'Italia è 1.5. Certo, chiaro. È l'obiettivo di Parigi. Noi oggi abbiamo... No, lo sappiamo che è l'obiettivo di Parigi. Sì, abbiamo superato il grado rispetto all'epoca preindustriale, e l'obiettivo di Parigi dice ben al di sotto dei 2 gradi, possibilmente 1,5 gradi, perché la IPCC ha dimostrato che tra 1,5 e 2 gradi di aumento medio della temperatura globale gli impatti si moltiplicano. Cioè, se 0,5 grado può sembrare poco, ma 0,5 grado in termini di aumento di temperatura globale significa invece molto. E l'altra è ultima cosa che... Sì, l'ultima cosa che volevo dire è che in prospettiva, sapete che in Germania c'è un grande investimento sull'idrogeno, noi vediamo l'idrogeno e i combustibili sintetici prodotti a partire da elettricità rinnovabile, idrogeno, metano di sintesi, carburante di sintesi, quindi con gli elettrolizzatori si produce idrogeno e si può chimicamente produrre dei combustibili interamente. Si ricordi che è domenica mattina, insomma, le scuole sono chiuse, non ci dica cose troppo complicate. No, però quello che significa è questo, che questa è una prospettiva che noi vediamo soprattutto dopo il 2030, ma anche in questo caso dobbiamo ricordare che si tratta di infrastrutture industriali molto complesse, per cui se vogliamo arrivare ad averle dobbiamo cominciare a avere una strategia oggi. Cioè, noi non possiamo pensare, quando si parla di 2030, 2040, per un politico è un tempo infinito, ma invece per un assetto industriale diverso non è un tempo infinito. Gli investimenti in questo campo hanno questi orizzonti, e quello che noi decidiamo oggi determinerà l'Italia la traiettoria possibile. Esattamente. Grazie a Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia. Ci ha anche aggiornato sull'incontro che ha avuto ieri, per l'appunto, agli Stati Generali dell'Economia. Ora noi ci fermiamo, abbiamo GR24, torniamo subito dopo. A tutti voi e a tra poco, buon ascolto. Si può fare. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Ciao, siamo le radio italiane, tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Alla fine dell'estate celebreremo insieme, con un evento speciale, la storia della radio e della musica italiana. Ti sembra normale che resti sveglio a corteggiarti per ore? I love my radio. tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccolo il primo concorrente del nostro quiz sul personaggio della settimana. È Claudio, chiamato dalla provincia di Gorizia. Buongiorno. Buongiorno. Non ci sono più le province, Friuli Venezia Giulia. Buongiorno. Io purtroppo non ho sentito. Non so, Claudio, può ripetere? Buongiorno, intanto ho detto, facendo una battuta al volo, che non ci sono più le province in Friuli Venezia Giulia. Ah, va bene. Bene, la risposta penso che sia Silvestre, quello che ha cantato l'inno alla finale di Coppa Italia. Ok, perché in effetti è successo questa settimana e perché è diventato suo malgrado famoso, lo era già noto, questa questione l'ha portato ovviamente alla ribalta. Sentiamo un po'. Non era lui, non era lui, però grazie per aver chiamato l'824-0024. Carlo, diamo un secondo indizio. Sì, mi sembra assolutamente un'ottima idea. Diamo un secondo indizio, che è il personaggio che stiamo cercando, ha fatto un lungo viaggio. Grazie a Claudio che ha chiamato. Allora, il personaggio è diventato famoso suo malgrado, ha fatto un lungo viaggio e adesso andiamo avanti. Yep. I like to start out by saying, fellas, good night. Yeah. You know what it's about. If you're looking for a mister. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di bambini costretti in carcere con le mamme detenute. È stato presentato un emendamento di cittadinanza attiva per case famiglia protette per le detenute con figli minorenni. Vorremmo intanto sapere da Laura Liberto, che ci ha raggiunto ed è appunto colei che nell'ambito di cittadinanza attiva è la responsabile giustizia, vorremmo intanto sapere com'è andata questa discussione sull'emendamento che era stato presentato in occasione del decreto giustizia, della discussione sul decreto giustizia. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. La nostra proposta, che riguarda sia l'istituzione di case famiglia protette per madri e bambini, sia la rimozione, insomma, degli altri ostacoli che determinano, diciamo, questa situazione che, per la quale appunto i bambini si trovano in carcere con le mamme detenute, è diciamo una proposta appunto che è stata presentata quando il decreto era il decreto giustizia era in discussione al Senato, e in realtà la proposta di emendamento è stata ritirata ed è stata trasformata in un ordine del giorno, quindi al momento in un atto di indirizzo, insomma, nei confronti del governo rispetto a queste proposte. Abbiamo ripresentato, diciamo, abbiamo risollecitato la presentazione delle stesse proposte adesso che il decreto si trova alla Camera e quindi appunto diciamo in fase di conversione, e quindi lì saranno discusse. E qual è questa proposta? Ci spiega qual è l'elemento di novità di questa proposta? Allora, gli elementi di novità sono diversi. Sicuramente uno particolarmente significativo riguarda proprio appunto la parte relativa alla realizzazione di case famiglia in cui diciamo le madri con i bambini potrebbero essere appunto ospitate per diciamo farli uscire dalle strutture penitenziarie e quindi appunto evitare che anche in futuro, insomma, anche al di là di questa fase di emergenza in cui appunto è nato anche questo nostro, diciamo, lavoro. Stiamo parlando, vorrei ricordare agli ascoltatori, di bambini da 0 a 3 anni, quindi stiamo parlando di bambini molto piccoli. Esattamente, esattamente. Diciamo che al momento e nati, se non ho capito male, nati nel momento in cui la madre era in carcere. E sempre per i nostri ascoltatori, perché sennò sembra che uno dice adesso basta avere un figlio che non esce dal carcere. In realtà non stiamo dicendo questo, ma stiamo anche parlando di numeri molto piccoli. Mi sembra che il picco sia 60 e adesso si parli di una ventina di mamme che hanno un bimbo molto piccolo e che quindi sarebbe meglio che forse questi bimbi non stessero chiusi dentro nel carcere, ma che stessero insieme alle mamme in delle strutture apposite, ovvero queste case famiglia. Assolutamente, poi stiamo parlando in realtà appunto di modalità alternative per eseguire la pena, insomma, quindi non stiamo parlando appunto delle situazioni alle quali faceva riferimento, ma appunto stiamo parlando di situazioni in cui venga messo al centro la tutela della salute psicofisica appunto dei bambini e non venga appunto sacrificata rispetto appunto ad altri tipi di così di esigenze, insomma. E uno dei problemi principali è che in realtà proprio per un limite presente nella normativa vigente le case famiglia che esistono al momento su tutto il territorio nazionale sono soltanto due, quindi in realtà appunto una delle cose fondamentali che noi chiediamo e che è contenuta in parte nelle nostre proposte riguarda proprio appunto la rimozione di questi ostacoli anche di natura economica che impediscono appunto l'attivazione e la realizzazione di nuove case famiglia. In realtà si tratta, come ma diceva, quindi non c'è un desiderio. Non c'è un desiderio, di bloccare questo tipo di progetto, quanto più c'è una carenza economica reale di case famiglia, nel senso che se ci fossero le case famiglia saremmo tutti ben contenti di spostare lì le mamme con i bambini, giusto? Assolutamente, questo sicuramente è uno dei problemi, è uno degli aspetti più critici ed è appunto una delle proposte principali che noi appunto abbiamo presentato in questa occasione e sulle quali naturalmente continueremo appunto ad insistere e su cui peraltro appunto abbiamo diffuso proprio in queste ore, in questi giorni una lettera appello rivolta a tutte le istituzioni competenti. In questo caso si tratta del Ministro della Giustizia, ma anche appunto del Ministro dell'Economia e della Camera dei Deputati e la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, che in queste ore appunto sta discutendo del decreto giustizia, insomma. E quindi ci terremo in contatto per sapere come proseguono le cose. Grazie intanto a Laura Liberto, responsabile giustizia di Cittadinanza Attiva, Viabilità. Si può fare. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Obiettivo non è soltanto riportare in Italia cervelli italiani che hanno studiato e lavorato all'estero, ma più in generale l'obiettivo della Fondazione Armenise Harvard è di portare in Italia ricercatori di altissimo profilo, offrendo loro l'occasione di aprire ad esempio un laboratorio per portare avanti le loro ricerche in Italia. Ora c'è aperta il bando per le candidature per il prossimo anno. Si tratta di bei soldini, perché questa fondazione consente di beneficiare di borse da $200,000 l'anno per 3-5 anni, ovviamente per fare ricerca in Italia. Una delle ricercatrici che hanno beneficiato di queste borse è Chiara Ambrogio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie. Che adesso è a Torino, che adesso è a Torino, vero? Dopo una decina d'anni all'estero, quindi una bella esperienza all'estero, ora è tornata a Torino per studiare in particolare i tumori ai polmoni. Com'è stata la sua, cioè, il suo percorso, ecco, professionale? Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato a parlare oggi. In realtà non c'è una trasmissione migliore di una con il titolo Si può fare, che può descrivere la mia esperienza. E siamo contenti. La ringraziamo molto. Io ho passato, come sapete, 10 anni all'estero dopo essermi formata all'Università di Torino. Ho studiato prima in Spagna, poi negli Stati Uniti. E nel momento in cui, molto critico, il momento in cui noi siamo pronti per decidere dove fondare un laboratorio, che diciamo è un periodo che si suppone essere quello fondamentale nella carriera di ogni scienziato, di ogni ricercatore, mi sono messa sul mercato, come si dice, ho valutato le opzioni che fossero possibili e la migliore fra tutte quelle che mi è stata offerta è stata proprio quella della Fondazione Arbenite. Per cui ho deciso di tornare. Diciamo che è importante dire che non è stata una decisione dettata da necessariamente scelte personali, ma è strettamente professionale. Non avrei mai compromesso la qualità della ricerca scientifica che posso fare, quindi vorrei che fosse importante che passasse il messaggio che io sono tornata in Italia convinta di poter fare ricerca ad alto livello e a livello competitivo internazionale. E questo è molto importante, esatto. Questo che dice, assolutamente, perché giustamente non è che uno torna per l'affetto o perché gli piace l'Italia o perché gli piace la pizza, ma dice guardate, io vado in Italia perché quello è il posto giusto, io qua posso portare a termine la mia ricerca, cioè è il più bello di tutti i ritorni, altrimenti sembra semplicemente che uno torna perché ha un po' di nostalgia. Vero, nonostante comunque la pizza mi piace tantissimo. Vabbè, ma anche in America credo che ormai si trovi. E questo volevamo sentirle dire. lo Stato aveva e prevede ancora, no, lo Stato italiano, degli sgravi, insomma, per attrarre, sgravi fiscali per attrarre almeno gli italiani che hanno studiato all'estero, però direi che in questo caso più importante da quello che ha detto è quello che le ha consentito di portare avanti la sua ricerca più che lo sgravio fiscale, forse quindi è là che dobbiamo insistere. Assolutamente sì, questo è un buon punto da toccare, ovviamente ci sono ancora delle parti che devono essere migliorate dal punto di vista dell'offerta che si viene proposta. Il salario è ancora al di sotto degli standard europei, ma si stanno comunque cercando di attuare delle iniziative che possano rendere anche dal punto di vista salariale, perché tengo a chiarire che i soldi che noi riceviamo sono per la ricerca, quindi in questo momento qua il salario è fornito per me dall'Università di Torino, però come ha detto lei ci sono degli sgravi fiscali per noi che sono per i prossimi 5 anni e questo sicuramente è un incentivo. Si possono sicuramente implementare delle misure a brevissimo termine che non comporterebbero necessariamente delle riforme dal punto di vista ministeriale troppo pesanti. Ad esempio, una delle cose che sono state già sottolineate dalla direttrice del programma Armenise, Elisabetta Vitali, sulla riga, sulla stessa onda di un'iniziativa sostenuta anche da AIRC e Teleton, che sarebbe eliminare o almeno ridurre l'IVA sui prodotti di ricerca e sugli strumenti, perché noi ad oggi in Italia purtroppo paghiamo ancora il 22% di IVA e questo ci svantaggia tantissimo. Ma all'estero come funziona? Diversamente quindi? Sì, all'estero funziona diversamente, ovviamente con regolamentazione che è dipendente da Stato a Stato, ma sicuramente ci sono delle condizioni migliori. Che facilitano quindi la ricerca. Ma mi perdoni la domanda, mi perdoni forse una domanda stupida, ma mi stavo chiedendo, siccome mi sembra bellissimo le cose che sta dicendo, mi stavo chiedendo, ma fra 5 anni, quando diciamo sono finiti i fondi per questa ricerca, non è che la perdiamo di nuovo, vero? Possiamo convincerla a rimanere? Dipende da tanti fattori che sono ovviamente il fatto che io in questo momento il grant che riceviamo si chiama startup, vuol dire è una scintilla iniziale che ci serve per iniziare e per andare avanti. Ovviamente il fuoco lo dobbiamo mettere noi. Devo dire che sono abbastanza, anzi direi totalmente ottimista, perché mi baso sui dati storici della fondazione. Ad oggi questo programma, di cui io sono l'ultima, diciamo, della nidiata, è iniziato nel 2001, quindi abbiamo uno storico di quasi 20 anni, uno storico statistico, nella stragrande maggioranza, tutti tranne uno dei licenziati che sono stati supportati per tornare in Italia, sono rimasti in Italia con storie scientifiche totalmente di successo. Per cui noi siamo in grado di generare, diciamo che di nuovo, numeri alla mano, i soldi, i finanziamenti che un ricercatore che torna in Italia con questo programma riesce a generare autonomamente sono più del doppio di quelli che riceve inizialmente, per cui vuol dire, in altre parole, che siamo competitivi a sufficienza sia a livello nazionale, ma molto più importante internazionale, per essere in grado, diciamo, fra virgolette, di camminare con le nostre gambe. Una volta che siamo tornati, applichiamo per ricerche, per finanziamenti e siamo competitivi. Fino adesso sono 27 ricercatori che hanno usufruito di queste borse, quindi lei è una di questi 27. Esatto, sì, si aprono l'ultima, la 27esima, si aprono le candidature per il Career Development Award 2020 con scadenza il prossimo 15 luglio. Certo, il tempo è poco, però magari uno per il futuro se lo mette in calendario. Le aree di ricerca sono quelle della medicina, immunologia, poi leggo genetica, neuroscienze, insomma stiamo su un filone prettamente scientifico, però è bene a sapersi, posso, no? Sì, e devo dire che se posso, certo, comunque questo programma instaura un circolo virtuoso, perché io posso parlare della mia esperienza personale in quanto ultima vincitrice, quindi semplicemente il mio nome è sul sito della fondazione da quest'anno. Sono stata contattata già quest'anno da talenti, diciamo da cervelli di ritorno, che sarebbero interessatissimi a sentire la mia esperienza e a capire quali siano le ragioni che alla fine mi hanno portato a tornare in Italia, quali siano le reali possibilità, per cui diciamo che una bellissima sensazione di essere un amplificatore di quelle che possono essere le possibilità, per cui sono molto fiduciosa, perché già quest'anno io stessa sono stata contattata da 3-4 persone che sarebbero interessate a tornare, così come immagino tutti gli altri 27 CDA, per cui si spera che questo sia soltanto l'inizio. Lei è stupenda, ci dà solo buone notizie. Io credo che adesso abbiamo il suo numero di telefono, sappiamo che è in Italia, credo che la chiameremo tipo tutti i weekend. Volentierissimo, c'è bisogno di un po' di ottimismo. No, ma credo, no? Le faccio un'ultima, è un ultimo tentativo, non so se sto esagerando, ma le volevo chiedere se riusciamo a fare uno sforzo per cui spieghiamo anche a me, che ho un'età mentale di 11 anni e ricordandoci che è domenica, se ci spiega molto brevemente, molto semplicemente, il tipo di ricerca che sta facendo, se possiamo comprenderla, se no va bene anche un saluto. Sì, io credo che sia facilissimo e soprattutto credo che sia un grosso dovere da parte nostra di scienziati e ricercatori cercare di utilizzare un linguaggio che sia il più possibile fruibile dal pubblico, perché è arrivato il momento giusto. In cui dobbiamo smettere di essere arroccati nei nostri alambicchi e cercare di essere un po' più vicini. Come abbiamo visto in questo momento del Covid, abbiamo avuto una finestra mediatica che non abbiamo mai avuto prima, ed è il momento di approfittare per far capire che quello che facciamo in realtà è di un'utilità sociale a livello immediato. Io mi occupo di carcinoma del polmone, quindi lavoro nel campo dell'oncologia molecolare. Stiamo facendo a livello generale di comunità degli enormi passi avanti, e nello specifico io mi occupo di un sottotipo di adenocarcinomi del polmone. Non lavoro con pazienti, però durante l'esperienza che ho avuto ho fatto una parte di preparazione, che è stata quella appunto che ho fatto ad Harvard, in un team di oncologi, per cui nella mia esperienza personale questo, anche se non è il mio mestiere, io lavoro con le cellule, con le provette e in laboratorio, ma riuscire a essere a contatto anche con la parte finale del processo per un ricercatore di base, come sono io che faccio ricerca di base, capire la fine del processo e riuscire a vedere quali possono essere le applicazioni è importantissimo. Chiara, noi la ringraziamo e le auguriamo davvero ogni fortuna nella sua ricerca. Chiara Ambrogio, abbiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed ecco un'altra concorrente per il nostro indovinello, si chiama Paola, chiamato da Alessandria, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Paola, allora che idea si è fatta sul personaggio famoso? A me è piaciuta molto la notizia della laurea ad Oxford di Malala Yousafzai. Certo, quella che abbiamo conosciuto come bambina pakistana, ormai ragazza, sì, insomma donna. Sì, che ora ha 22 anni, come si è laureata. Come attivista pakistana. E si è battuta per l'accesso delle donne all'istruzione, ha avuto un Nobel, anche se non è la risposta giusta, sono contenta di averla ricordata. Sentiamo un po' cosa ci dicono. È vero, ma... Dicevi, Carlo? No. Non era lei, ma volevo dire che la nostra ascoltatrice è precisissima, ha già detto tutto, siamo felicissimi di ricordare questo premio Nobel, lei è la più giovane vincitrice del premio Nobel per la pace in assoluto, sì. Quindi siamo veramente contenti di ricordarla e la ringraziamo molto, signora. Grazie Paola. Grazie, grazie a tutti voi. Allora, cosa ne dici? Diamo il terzo anche oppure teniamo ancora un attimo? Ma secondo me sì, è il 21 giugno. Decidi tu però, ovviamente. Ah, è il 21 giugno, quindi tu sul solstizio vuoi fare... Va bene, allora... Sì. Terzo. Un po' di vacanza. Abbiamo scritto, è il suo modo di dire grazie. Io forse potrei anche cambiarlo per facilitare, vuole dire grazie. Fallo. Vuole dire grazie. È diventato giusto, famoso suo malgrado. Giusto. Ha fatto un lungo viaggio e vuol dire grazie. 824 0024. Prego. Scusami, do un altro aiutino, o meglio una cosa che diciamo sempre, che il nostro personaggio, noi diciamo personaggio, ma può essere uomo, donna o anche un'entità, una cosa, è stata anche la luna, un razzo, piuttosto che il solstizio. Sì, certo, non deve essere necessariamente, vabbè adesso non mi fermo, se no dico uomo. Troppo. Non è necessariamente un uomo, questo lo sanno perché hanno chiamato per Malala, non riesco mai a dirlo il suo cognome, mi fermo qua. Ho fatto delle gaffe terribili con i GR24 sul cognome di Malala. Allora, proseguiamo. Abbiamo parlato di cervelli di ritorno nella ricerca, ma ci sono cervelli che ritornano anche da altri ambiti, per esempio dalla finanza, non so, per caso, come ad esempio Michele Callegari, buongiorno. Buongiorno a tutti. Di Barberinos, una catena italiana. Buongiorno. Di barbieri, fondata per l'appunto da Michele Callegari e anche da un suo socio, e provengono loro da un ambito ben diverso, vengono dalla finanza, dal mondo bancario. Lei, Michele, in particolare ha studiato a Londra, ha lavorato a Credit Suisse, ho letto, poi dopo è arrivata Unicredit, vero? Insomma, una serie di esperienze all'estero in un settore molto diverso da quello della barberia. Sì, è vero, io venivo da 12 anni di esperienza lavorativa esclusivamente nel mondo finanziario, quindi dall'equity research all'investment banking e poi alla consulenza strategica mi sono occupato sempre di valutazioni di aziende e questo l'ho fatto principalmente tra Londra e Monaco di Baviera e poi anche Milano. Mm-hmm. E Niccolò Bencini, che è il suo collega, appunto, anche lui ha un percorso simile. Vi siete conosciuti, tra l'altro, no? In quegli anni lì. Esatto, ci siamo conosciuti in banca, lavoravamo insieme a Londra. Lì a Londra, tra l'altro, eravamo clienti e affezionati dei saloni di grooming maschile, cosa che qua in Italia ancora non esisteva. E siccome diciamo che vi siete conosciuti dal barbiere, possiamo dire No, purtroppo ci siamo conosciuti in ufficio, però poi avevamo diciamo questa passione in comune e quindi insomma quindi... avete pensato che potevate utilizzare le vostre competenze in un settore per cambiare però completamente settore, perché poi avete cambiato alla fine. Esatto. Ci siamo chiesti perché questo settore fosse ancora fermo agli anni 60-70 in Italia, e perché quando tornavamo in Italia non trovavamo brand che potessero darti le esperienze da vivere, perché ormai il consumatore di oggi ha shiftato il paradigma tra oggetti da comprare a esperienze da godere, no? nelle sue abitudini di consumo. E allora ci siamo accorti che mentre il mondo anglosassone era andato avanti di 15 anni, quello italiano era rimasto fermo e mancava un po' un riferimento per l'esperienza, per il benessere, per l'essere maschile, che fosse portato nel nuovo millennio, quindi con le nuove tecnologie, con i nuovi modi di comunicazione, di formazione. E abbiamo iniziato a fare quello che potrebbe rivoluzionare la professione del barbiere qua in Italia. Mm-hmm. E abbiamo adesso aperto 8 punti vendita e abbiamo lasciato le nostre carriere di banca, e Covid permettendo adesso stiamo andando avanti ai nostri progetti. Ma lavorare a Londra in quel mondo lì è davvero così terribile come si legge a volte? È così pesante, così faticoso, insomma? No, beh, a parte il tempo, a parte il clima, diciamo che lavorare e studiare in ambiti diversi ci ha dato diversità, versatilità, ovvero sei un po' obbligato a prendere il meglio di tutti i contesti in cui ti trovi. Quindi dall'Inghilterra ho fatto mio il pragmatismo, la concretezza. Quando sono stato in Germania invece ho cercato di assimilare l'efficienza un po' teutonica, e nell'Italia porto l'imprenditorialità, la creatività, la propensione al rischio, ecco. Senti, ma volevo chiederti una cosa. Ma tu stavi dicendo l'esperienza in Italia è per quanto riguarda il barbiere un po' ferma agli anni 70. Io mi chiedevo, ma forse l'esperienza del barbiere non è che in Italia è diversa che in altri posti, perché in Italia c'è proprio il barbiere, quello sotto casa, quello che tutti conoscono, quelli che a volte si tramandano di padre in figlio, e anche il figlio del barbiere fa il barbiere. Invece il fatto di avere un brand Barberinos che abbia diverse saloni da barba in giro per il mondo, non è che questo sia poco italiano? Guarda, in realtà quello che noi abbiamo fatto appunto è stato riprendere innanzitutto quello che erano delle tradizioni che ormai saranno perse, come panni caldi, scravviso e manicure, certo, che facevano tanto della scuola siciliana, soprattutto di inizio secolo, però le abbiamo portate in un contesto attuale del 2020, perché molte cose... In realtà non c'è franchising, ma molte cose sono cambiate, ovvero c'è necessità di avere tecnologia, perché bisogna prenotare dal telefono, c'è necessità di avere nuove competenze, perché il quartiere è importante, però ormai la gente si sposta, quindi devi saper parlare in inglese, almeno devi riuscire a avere un po' di empatia, devi conoscere gente nuova. E per tutte queste cose servono investimenti, serve formazione, e soprattutto il professionista di oggi già diversamente da quello di un tempo non vive e lavora sempre nella stessa città, nello stesso quartiere, ma purtroppo ormai spostarsi è diventato obbligatorio nel mondo del lavoro, no? Certo. Quindi per esempio molti nostri clienti purtroppo possono, per fortuna diciamo purtroppo anche, per insomma, fortuna non è detto che sia per forza un lato negativo. Esatto, quindi doversi spostare tra diverse città, noi vogliamo poter continuare a garantire un filo conduttore anche nel tuo benessere, nel tuo bellessere, no? Quindi poter ritrovare i profumi, la qualità dei barbieri, gli spazi, i colori che hai nel tuo quartiere, anche quando ti sposti magari in un'altra città business dove lavori, faccio l'esempio classico Milano-Roma, per noi è importante col brand. Scusa, io invece vi portavo su un'altra questione, perché ho visto che adesso ovviamente come tutti gli imprenditori volete espandervi, e con tutte le vostre competenze di banca e finanza avete scelto però il crowdfunding su Mama Crowd per farlo. Mi ha un po' spiazzato, ecco, meglio così quindi per crescere, meglio il crowdfunding. Sì, guarda, ho fatto questa strada. No, aspetta che abbiamo perso, non stiamo sentendo niente. Riprova. Ecco. Mi senti meglio adesso? Molto meglio. Ottimo. Noi abbiamo scelto questa strada abbastanza coraggiosa, anche perché sei stato il primo barbiere al mondo per farla, però fa parte anche del nostro DNA sempre cercare di innovare, quindi provare sempre strade nuove. nuove. Il crowdfunding per noi è importante per due motivi principali. Innanzitutto perché Barberinos è anche dei nostri dipendenti, cioè non esisterebbe, questo vale per qualsiasi startup, il successo senza le persone che ci lavorano, e quindi vogliamo che questa società sia anche la loro, e loro col crowdfunding avranno la possibilità, e tutta la nostra prima linea l'ha fatto, di investire direttamente nella società e di diventare soci. Questa è un'altra cosa che portiamo dal mondo anglo-americano, una struttura azionaria partecipativa. Noi non abbiamo paura ad avere nuovi soci. E questo in realtà è molto interessante, perché, perdonami, forse c'è anche un po' di confusione o di ignoranza anche da parte mia su tutto il mondo del crowdfunding, di cercare i soldi, perché da quello che ho capito il vostro sistema di crowdfunding in realtà non è semplicemente che chiedete alle persone di darvi dei soldi o di anticipare dei soldi che poi spenderanno in un possibile taglio di capelli, ma è proprio di diventare soci. Cioè, se mi permetti, sempre da ignorante, una battuta, è quasi più un entrare in borsa, giusto? È quasi sul mercato, diciamo, il vostro crowdfunding. Una piccola IPO, esatto, esattamente. E quindi niente, ricordiamoci sempre che poi forse una delle caratteristiche più limitanti dell'imprenditoria italiana è quella appunto di voler andare da soli, di mantenere il controllo, di non manageralizzare la propria società. Secondo noi da sempre da solo puoi andare più veloce, ma insieme puoi andare molto più lontano. Quindi se noi adesso, i nostri dipendenti sono anche i nostri soci, pensiamo veramente che difficilmente possiamo trovare qualcosa che ci possa fermare. E un altro strumento utile del crowdfunding è, poi essendo noi un business che va diretto al consumatore, avere anche a volte il consumatore all'interno della tua società è un vantaggio, perché ti fungono da ambassador naturali, no? Sono i tuoi sponsor principali, certo, se oltre ad essere, certo, i tuoi clienti sono anche i tuoi soci. Grazie molte, allora in bocca al lupo per win tutto. Win. Sì, win-win, esatto. In bocca al lupo a Michele Callegari e Nicolò Bencini con Barberinos. Abbiamo in attesa un'ascoltatrice, se non erro, no? Katia, sì, giusto, l'avevo memorizzato. Katia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, secondo lei chi è il personaggio della settimana? Allora, avevo pensato al professore che ha portato per un problema di connessione, ha attraversato la città di Roma, se non mi sbaglio, per andare a ripristinare, insomma, l'esame di terza media di questa ragazzina di 13 anni, quindi poi poterla fare. Che non si collegava. Sì, esattamente. Allora, sì, ho capito qual è la vicenda, non so bene cosa ci risponderanno dalla regia. Non è questa la... Non era lui, ma siamo contenti di aver ricordato il professore di educazione fisica che ha dato una mano alla propria alunna. E adesso... Ferdinando Bonessio si chiama. Ma come fai a saperla? Katia, grazie molte. Arrivederci, buongiorno. Viabilità. Grazie mille. Si può fare. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe, un unico partner, mille risorse. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Premio L'altro pianeta. E il premio L'altro pianeta di questa settimana lo attribuiamo al professor Saverio Senni del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università della Tuscia, per una vita, diciamo così, dedicata al ciliegio. Adesso ci spiega tutto lui. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno e grazie ovviamente per questa attenzione. Noi l'abbiamo seguita in questi ultimi mesi quando faceva lezioni dal ciliegio, sul ciliegio, dal comune di Celleno, che nelle scorse settimane era stato dichiarato, tra l'altro, no, una zona rossa a causa del coronavirus. Lei non ha mollato e dal suo ciliegio ha fatto lezione parlando dei ciliegi, ovviamente. E poi a Celleno c'è stata anche la gara dello sputo del nocciolo delle ciliegie. Insomma, direi che lei è proprio, se non vado errata, è stata l'inventore di questa gara, o sbaglio, professore? Vediamo, l'inventore non è importata, però diciamo, intanto oltre a ringraziarvi di nuovo, e mi fa piacere ovviamente anche condividere questo riconoscimento col territorio qui di Celleno, associazioni, Proloco, perché intanto un territorio votato, direi, alle ciliegie. Sì, e ciliegie. Da secoli abbiamo documentazioni medievali, cioè come un genius loci che abbiamo tirato su e stiamo facendo, come dire, emergere. Io ho fatto la mia parte anche appunto come studioso, come parte di una comunità scientifica improntata alla sostenibilità, che è quella del dipartimento che avete menzionato, e quindi si è creata questa scintilla, in aggiunta il lockdown ovviamente portato una maggiore creatività. Arriviamo anche allo sputo, ma insomma è una parte di questi che forse è la parte, come dire, che sicuramente ha più colpito. Vabbè, la parte goliardica, io quando ho letto 22 metri e 8 22 metri, colpito ci sembra la parola migliore, ma soprattutto perché in questi tempi di coronavirus ci chiediamo anche lo sputo del nocciolino a 22 metri, ci sembra quasi un'arma straordinaria. Credo che potremmo invadere la Svizzera sputando dei nocciolini. Ma infatti in queste che avete chiamato lezioni, che erano più dei racconti, delle suggestioni, delle narrazioni prese da un baule di spunti immenso che ho accumulato negli anni, di letture, di letteratura, di musica, eccetera, a un certo punto ho detto attenzione a comprare le ciliegie al negozio e poi a cominciare a mangiarle sul marciapiede, perché, ma seriamente, sembrava una battuta. C'è una varietà di ciliegie peraltro che si chiama Corona, esiste, ne esistono oltre 1000. Quest'anno abbiamo introdotto, come dire, questa terza novità, che era una lettura a voce alta in più voci di nomi delle varietà di ciliegie. Se io vi offro una spernocchia e io voi storcete la bocca, o vi propongo di mangiare un barracoccu de spiritu o un anellone bonantini, voi non sapete cos'è, magari diffidate. Ma non è solo una questione di gioco, è una questione in questo caso di biodiversità incredibile. E se arriviamo al nocciolo, questa biodiversità l'ho trovata anche rappresentata in stampe ottocentesche delle varie tipologie di frutta, che non sono tutte rosse, tra l'altro, anche questo un po' una semplificazione, in cui ogni nocciolo ha la sua forma, quindi non tutti sono uguali, alcuni, per stare poi al gioco che vi piace, rotolano meglio, altri magari un po' meno perché sono un po' meno rotondi. Comunque non l'ho inventata io, l'ho importata, mettiamola così. E chi è l'inventore? Da dove l'ha importata? Nasceva in una fattoria di frutta, era un privato in America, nel Michigan, che dal 1974 si era inventato questa cosa per attirare gente e vendere frutta, quindi un'iniziativa, diciamo, agricola privata, che poi si è sparsa. Ora c'è una pagina nel Wikipedia inglese tutta dedicata con le regole del gioco, eccetera, ma al di là della simpatia perché del è gioco, obbligatorio. Sì. Scusi, per andare esattamente su quello che stava dicendo, intanto è incredibile la questione della biodiversità, perché nessuno si immagina che ci siano più di 1060 tipi diversi di ciliegie, però ho letto che nel regolamento dello sputo è il nocciolino deve essere di Celleno, forse proprio per quello che diceva prima, che i noccioli sono tutti diversi e ci sono noccioli, cioè se uno sputa con un nocciolo diverso può avvantaggiarsi. Potrebbe essere, ma questo vale anche negli altri regolamenti che prima di parlare con voi oggi ho ripassato, anche internazionali, cioè le ciliegie ve le diamo noi perché potreste avere, pare che una volta sono stati pure beccati in Germania, a Wittenhausen, dove sono stato e dove c'è, ma per altri motivi, c'era un convegno, c'è un campo permanente, tipo campo di bocce, diciamo. È stato beccato uno che aveva cercato, come dire, di falsificare con una cosa più pesante, eccetera, quindi il nocciolo è strettamente locale. La cosa interessante, secondo me, al di là della simpatia, primo che è un evento che non costa niente, zero, assolutamente, che non si vede quasi niente, il pubblico si affolla e non vede perché questo nocciolo è quasi, quindi sta lì aspettando di capire quanto è andato lontano e diamo visibilità all'ultimo, diciamo, no? Il nocciolo è quello che alla fine di tutta l'opera, della maturazione, della raccolta, si mangia, eccetera, si butta senza pensarci. Eh no, lì c'è il germoplasma, lì c'è il futuro della prossima pianta, dei millenni futuri delle ciliegie, sta nel nocciolo. Quindi la polpa è lo scarto nel torneo di nocciolo, la polpa diventa lo scarto e il nocciolo diventa, come dire, il protagonista. E questo è anche un modo simpatico per guardare anche ad altre cose del mondo con quest'occhio, certo, diverso. Certo. Grazie professore. Grazie, giusto. Grazie, buon lavoro allora, buon proseguimento, ci saluti Celleno, la vi patria della ciliegia. E speriamo di vedervi, noi riprenderemo l'anno prossimo comunque. E noi cercheremo di esserci, magari non a farlo il torneo, ma così per vederlo. Grazie professor Saverio Senni, grazie. Arrivederci. Abbiamo un ultimo spazio per un ascoltatore, mi pare, sì. C'è Titti da Bologna. Titti, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora, che personaggio ha pensato? Secondo me è la coppia cinese che ha donato $40,000 all'ospedale Spallanzani di Roma dopo che sono stati amorevolmente curati. Sentiamo, sentiamo, prima che entri il giornale radio, sentiamo. Ed è giusto! Ed erano proprio loro, complimenti! Grazie. Zona Cesarini vince il libro! Vince Titti da Bologna, vince il libro, glielo faremo recapitare al più presto. Ringraziamenti per questa puntata di Danilo Di Trani, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari, in assistenza c'è Edoardo Lavezzari, in regia c'è Carmelo Lauricella e poi c'è ovviamente Carlo. Ciao da Carlo Gabardini, ci sentiamo sabato prossimo alle 8:30. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.